Forse bastava respirare, solo respirare un po'. Fino a riprendersi ogni battito e non cercare l'attimo per andar via, non andare via, perché non può essere abitudine dicembre senza te. Chi resta qui?